Siamo in collegamento con Giulia Agostini, che è coregista del documentario Where is My House, che sarà presentato domani mercoledì 20 al Cinema America Occupato. Intanto Giulia, benvenuta a Radio Onda Rossa. Grazie mille, grazie a voi. Raccontaci un po' di questo documentario, a partire dal titolo in inglese. Sì, il titolo in inglese è stato un caso, perché uno degli striscioni che abbiamo trovato più volte, proprio dei movimenti di lotta per la casa, su questo striscione c'è scritto Where is my house, e abbiamo pensato che fosse azzeccato come titolo per il nostro documentario, che appunto tratta l'emergenza abitativa a Roma a tutto tondo. Abbiamo voluto dare uno sguardo sulla città il più completo possibile, appunto partendo da proprio le baraccopoli, quindi quelle che si trovano nascoste lungo appunto il Tevere, l'Aniene, nei posti meno visibili, o anche le più visibili come quella di Ostiense, dove per lungo tempo c'è stata la buca degli afghani. Sì. Partendo da questo siamo appunto poi arrivati alle occupazioni, al lavoro dei movimenti, e appunto abbiamo voluto dare questo sguardo d'insieme. È stato un lavoro lungo che è durato almeno 2 anni per seguire appunto le storie che abbiamo scelto. Le storie sono appunto molto variegate, che vanno dal giovane rifugiato afghano alla studentessa fuori sede italiana che, non potendo più pagare un affitto, decide di andare a occupare. Allora, tra baracche e invece case occupate, quante realtà avete osservato? Guarda, all'inizio tante, perché non sapendo quello che avremmo trovato appunto sul campo, tra virgolette, all'inizio giravamo io e appunto il regista Matteo Di Calisto con una telecamera in giro per Roma. Sì. Quindi veramente avremmo visto una ventina di realtà. Poi ci siamo focalizzati su alcune. Sì. Abbiamo seguito la storia di 4 realtà principali, però all'inizio ne abbiamo viste tante, abbiamo conosciuto tante persone, devo dire sono tutti gentilissimi a aprirci le porte appunto delle loro case, delle loro abitazioni, e è stato anche un bel percorso umano per noi. Oh, il movimento di lotta per la casa a Roma ha una forte e solida tradizione fin dagli anni 70. Volevo chiederti che ne è oggi, a partire soprattutto dal fatto che c'è una grossa componente per esempio di migranti che ne fa parte. Ecco, che situazione avete trovato? Ma abbiamo trovato un movimento ancora molto forte, molto strutturato. Sì. Sicuramente appunto una risposta per tantissime persone alla crisi abitativa che oggi c'è a Roma. Molte persone senza movimenti oggi non avrebbero una casa, che sia occupata o meno. Appunto abbiamo trovato una realtà molto strutturata, nonostante appunto le, per esempio, tante occupazioni che sono avvenute recentemente, anche solo un paio di mesi fa, tantissima gente rimane in lista di attesa per andarsi a occupare una casa, quindi insomma, nonostante il movimento di Roma sia molto vasto e molto strutturato, questa crisi abitativa è talmente forte che comunque non basta. Sì, sì. Oh, per quello che avete potuto vedere quante strutture sono occupate dal movimento, da un variegato movimento di lotta per la casa, e quante persone fanno riferimento a queste strutture? Guarda, noi come numero di strutture non so i numeri esatti, so che appunto almeno sulle 11.000 persone a Roma vivono in una casa occupata al momento. Noi ne abbiamo seguite 2, una occupazione appunto sulla Prenestina e una più verso via del Policlinico. Abbiamo seguito la storia di queste 2 occupazioni. in cui, in ognuna delle quali, vivono almeno un centinaio di nuclei familiari, quindi insomma occupazioni grosse, importanti. E stante la variegata anche presenza di persone, insomma, dicevi prima all'inizio, piuttosto trasversale, dal migrante alla studentessa precaria, ecco, cosa accomuna queste storie, insieme al chiaramente al grosso bisogno della casa e una precarietà di vita? Ma sì, esatto, c'è una grandissima varietà di storie con appunto anche bisogni a volte diversi, appunto sì. Una studentessa precaria ha dei bisogni diversi da un rifugiato politico molte volte. Quello che accomuna è che insomma le istituzioni locali non offrono nulla. Sì. E quindi queste persone con problematiche a volte anche molto diverse, che potrebbero essere risolte in modo diverso, si trovano senza nessun aiuto appunto da parte delle amministrazioni locali. Il mercato non gli permette di accedere né all'acquisto né all'affitto di un'abitazione, quindi si trovano soli. E si devono inventare delle soluzioni alternative per quanto riguarda l'abitazione, e in questo appunto i movimenti sicuramente sono un fortissimo supporto per loro. Giulia, su due questioni volevo chiederti qualcosa. Rispetto alla questione reddito, ecco, come fanno fronte le persone che vivono in strutture occupate, ma anche chi vive nelle baracche? E poi hai parlato di un'organizzazione piuttosto strutturata, i momenti di socialità? Sì, allora, per quanto riguarda il reddito, dipende, nel senso, nelle baraccopoli, che sono poi gli insediamenti molto più precari, in cui di solito siamo trovati di fronte a rifugiati politici molte volte, la situazione reddito è molto complessa, perché sono appunto persone che magari sono arrivate in Italia da qualche mese, che non parlano ancora bene la lingua e che quindi fanno fatica a trovare un lavoro, magari lavorano l'estate andando a vendere le cose a Ostia, questo soprattutto appunto i ragazzi afghani lo facevano. Nelle occupazioni già la situazione è più strutturata, però si tratta sempre di lavori precari. Sicuramente la maggior parte delle famiglie che vivono in occupazione, non tutte, però molte, hanno un reddito precario che va da lavori saltuari, che possono essere da appunto lavori in casa, a muratori, oppure proprio persone che appunto giovani italiane che studiano o che assolutamente hanno lavori precari, che questo non gli permette di pagare ogni mese un affitto. Era un'altra soluzione che andare a occuparsela una casa. Mentre per quanto riguarda la socialità, devo dire che noi ci hanno sempre aperto le porte, hanno appunto anche organizzato in una delle occupazioni un bellissimo pranzo per farci vivere questi loro momenti di socialità, che esistono appunto a prescindere dalla nostra venuta con le telecamere o meno. C'è una grande solidarietà, questo quello che abbiamo notato è che c'è una grande solidarietà. Se appunto non si ha da mangiare, basta bussare al vicino accanto che ti offre il piatto tipico della sua terra, insomma ci si cerca di aiutare a vicenda, si fanno anche cose divertenti. Appunto, in una delle occupazioni che abbiamo seguito hanno anche organizzato concerti, serate cinema, sono andati 99 posti a suonare, insomma ci sono anche momenti di socialità anche più allargata, sì. Che non solo agli abitanti interni. Senti Giulia, oltre a questo momento di presentazione in una struttura tra l'altro occupata, il Cinema America, di domani, distribuzione, che tipo di distribuzione avrà il vostro lavoro? E in rete c'è un sito dedicato proprio al documentario o alle vostre attività? Sì, intanto abbiamo scelto il Cinema America occupato appunto perché per noi aveva un senso fare una prima in un posto occupato. Dopodiché lo stiamo mandando a dei festival sia in Italia che all'estero, perché appunto vorremmo che si vedesse non solo sul territorio di Roma ma insomma anche fuori. Stiamo aspettando appunto le risposte dei festival, dopodiché faremo sicuramente un'altra proiezione al Cinema Palazzo, sì. Probabilmente anche quello appunto occupato, probabilmente tra un mese, poi appunto nel senso l'idea è anche quella di organizzare noi alcune le prime proiezioni, ma poi chiunque volesse proiettarlo da qualche parte noi siamo saremo veramente felici della cosa. Bene. E, per ora c'è solo una pagina Facebook. Ok. Where is my house? Apriremo un blog a breve, ci stiamo lavorando. Bene. Allora, ricordiamo per chiudere l'appuntamento di domani sera al Cinema America occupato a Trastevere, vicino Piazza San Cosimato, via Mary del Val. E, a che ora? E poi chiaramente immagino che sarà prevista anche la vostra presenza. Sì, assolutamente, sarà alle 21, sì. Ci saremo sia io che Matteo Di Calisto, ci saranno alcuni dei protagonisti, insomma cosa forse ancora più importante sì. Del documentario, ci sarà appunto l'intervento anche di alcuni tecnici, di alcune associazioni che ci hanno aiutato in questo percorso come Medici per i Diritti Umani e Legambiente, parlerà anche un urbanista, Paolo Bertini, e poi chiunque volesse intervenire è il benvenuto, insomma vorremmo fosse un dibattito più che un incontro frontale. Bene, allora Giulia un abbraccio, in bocca al lupo e magari ci si sente presto. Grazie mille Crepi il Lupo. Ciao. Grazie, ciao. E questa era Giulia Agostini, co-regista del documentario Where is my house, presentato domani sera al Cinema America occupato qui a Roma. Giovedì 21 febbraio del 2013, 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa dal 1977, senza padrini, senza padroni. La radio è di chi se la sente e chi se la sente può contribuire a farla vivere. Ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Volci 56 00185 Roma. Può anche consultando il sito internet della radio www.ondarossa.info andare a vedere su Sostieni, troverà lì la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema Visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per ascoltarci, se non avete un apparecchio radio, potete farlo anche dal computer, sempre sul sito della internet della radio, sulla home page c'è l'opzione Ascolta la diretta. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Poi per quanto riguarda Facebook c'è anche la pagina appunto di Visionari. La scaletta la potete trovare sul sito internet della radio alla voce trasmissioni Visionari. Ci sono gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 21 febbraio e poi i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, la settimana sul piccolo schermo e per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana, quelli in giro per l'Italia tra rassegne, proiezioni e festival. In fondo alla pagina il link che rimanda alla puntata precedente e all'archivio del 2013 e del 2012. Abbiamo degli ospiti quasi tutti registi quest'oggi, anche di lavori che usciranno in sala proprio quest'oggi. Allora, diamo inizio ai collegamenti. Apriamo con Enzo Dalò, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, buongiorno. Allora, per me è un piacere averti con noi. Sei uno degli animatori più importanti di questo paese per quanto riguarda appunto i lavori in animazione, cartoni animati. Esce oggi Pinocchio, il tuo ultimo lavoro. Intanto ti chiedo Enzo, è passato un po' di tempo, una decina d'anni dall'ultimo Opopomoz. E nel frattempo cos'è successo? Bene, intanto non sono esattamente un animatore, nel senso che per noi gli animatori sono quelli che disegnano tutti i disegni del film, e io certo. disegno malissimo. Quindi diciamo che ho altre specifiche, forse sì. più direttive, forse più autoriali, nel senso che lavoro molto sulla scrittura, sì, seguo, sì, so sì, correggere sì. i disegni, ma non so farli, che è una cosa ingrata. Invece no, dopo Popo Moz, che uscì nel 2003, ho lavorato a una serie televisiva che si chiama Pipì Pupù e Rosmarina, e poi dopo ho iniziato il Pinocchio, anche se ci ho lavorato spesso anche mentre facevo Pipì Pupù e Rosmarina, questo Pinocchio a cui tenevo molto. Mm-hmm. E quindi diciamo che sono stato pinocchiato per tutti questi anni, perché la produzione è partita 4 anni fa, sì, quindi già sì. è stata una produzione molto, molto lunga rispetto al solito, insomma in genere si parla di 2 anni, 3 anni per fare un film d'animazione. È stato un lavoro articolato, molto legato anche a mantenere la grafica di Lorenzo Mattotti il più possibile, il lavoro con le musiche con Lucio Dalla è stato un lavorone stupendo, e quindi ci ho dedicato molto della mia vita. Allora, hai detto 4 anni fa, ecco, come è nata intanto l'idea di proporre nuovamente Pinocchio nelle sale, e come poi si è articolato il lavoro? Mi fu chiesto dalla Rai, da Massimiliano Gusbert mi chiese di pensare a un Pinocchio, e allora pensai a un Pinocchio che doveva essere qualcosa di mai visto prima, completamente diverso come struttura logica, come disegni, come musiche, e cercai un tipo di grafica che fosse qualcosa che è proprio originale, come Lorenzo Mattotti, che poi è un grandissimo illustratore ma che non ha mai fatto niente in animazione. Dopodiché la ricerca dei finanziamenti, come tu sai, è sempre il lavoro più difficile qua certo, in Italia, certo. anche se io ho 4 film sulla coscienza, per fare il quinto comunque è tutto un lavoro capillare di cercare un soldino qua, un soldino là, e si è trovata la coproduzione con l'estero, sono 4 paesi in tutto che coproducono il film, e si è suddiviso il lavoro tra questi 4 paesi, Italia, Francia, Lussemburgo e Belgio. Sì. E peraltro questo è anche molto bello, il Pinocchio esce in contemporanea. Ieri è uscito in Francia, oggi esce in Italia, la settimana prossima uscirà in Lussemburgo e alla fine di marzo in Belgio, quindi c'è anche un'uscita europea, se possiamo chiamarla così, ma dobbiamo chiamarla così. Senti Enzo, rispetto all'immaginario strapieno rispetto a Pinocchio, sia per quanto riguarda le pagine scritte che le immagini, su cosa avete voluto puntare? Abbiamo voluto, nella scrittura ho cercato di focalizzare il rapporto tra padre e figlio, mi piaceva sì. molto questa idea, mi sembrava anche un punto di vista diverso, non un rapporto melanconico, patetico, ma un rapporto contemporaneo, perché poi il falegname che si costruisce un figlio per me è una bella metafora sul papà di oggi, che vorrebbe papà di oggi ingegnere, che vorrebbe il figlio ingegnere. oppure anche questa è ancora più forte, il papà che non è riuscito a fare l'ingegnere, che a maggior ragione vorrebbe il figlio ingegnere. Sì. E invece il figlio nasce poeta o avvocato e se ne parte per il mondo. E questa è la storia di Pinocchio. È un bambino che si ritrova in un mondo di adulti, in un mondo di persone che dicono una cosa e ne pensano un'altra. E mentre lui è ingenuo, il suo pensiero corrisponde esattamente a quello che dice, anche se dice le bugie, come si sa, Pinocchio è famoso perché dice le bugie, le sue bugie sono bugie di un bambino, bugie innocenti, al contrario, ce ne sono, un gatto e una volpe, peraltro nella nostra versione abbiamo Maurizio Micheli e Marie Claire Fatato, che sono un gatto e una volpe splendidi, una volpe donna. Ecco, il gatto e la volpe dicono delle bugie molto più pericolose, sono degli imbroglioni. Senti Enzo, a che pubblico volete rivolgervi? Nel senso, oggi insomma, dai bambini ai più adulti c'è veramente un'iperproduzione di immagini e di storie. Ecco, il cinema tra l'altro sta perdendo anche terreno. Qual è il pubblico di riferimento a cui avete voluto puntare? Il pubblico di riferimento è il pubblico ideale, il pubblico che va dagli 0 ai 105 anni, perché l'età media si sta allungando. È un pubblico dei bambini, troverà una storia piena d'azione, con molte canzoni, che farà sorridere, ridere e anche emozionarsi. Il pubblico degli adulti troverà delle citazioni, delle immagini. Un amico mi ha detto l'altro giorno, vedendo il film, mi ha detto sembra sembra un libro di storia dell'arte, perché tutto il lavoro di ricerca basato su radici italiane, toscane sicuramente, ma spazia poi voglio dire, parliamo di Toscana, arte toscana, parliamo del Rinascimento, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, quindi c'è veramente una ricchezza di colori e di esplosioni in questo film. Mm-hmm. Senti, qual è per te l'elemento rispetto a un classico come Pinocchio che lo rende immortale nel tempo? Pinocchio è il libro più letto al mondo dopo la Bibbia e il Corano, e già questo basterebbe a renderlo immortale. Mm-hmm. Il cinema d'animazione poi ha una grande particolarità, permette di uscire fuori dagli schemi della realtà e quindi di decontestualizzare quello che si vede e di ricontestualizzarlo secondo le proprie aspettative, quindi secondo i propri canoni, secondo la propria vita sociale. Che ne so, per farti un esempio più semplice, se io ho un personaggio che mi sembra un imbroglione nel film, lo identifico con un imbroglione con cui ho avuto a che fare nella mia vita privata, come anche l'identificazione dei bambini in Pinocchio è un'identificazione molto più facile perché è aiutata dal fatto che il mezzo del cinema d'animazione è un mezzo metaforico, sempre, perché evidentemente per raccontare una cosa che può essere più o meno reale si usa un disegno e non un'immagine reale. Mm-hmm. Ecco, in questo il cinema d'animazione in generale è sempre al di fuori del tempo. Una storia, un libro come Pinocchio, un libro che è al di fuori del tempo perché continua a essere acquistato, eletto e tradotto. Modestamente spero che anche il mio film abbia un risultato del genere. Ricordo che a suo tempo apprezzai molto La gabbianella e il gatto rispetto ai tuoi lavori, e volevo chiederti, Enzo, oggi va molto il 3D e anche l'animazione digitale, ecco, che cosa comporta oggi la scelta del disegno animato, del cartone animato invece? Il mio film è un esempio di avanguardia, perché il Pinocchio è il primo film realizzato completamente in digitale in Europa. Sì. C'è solo un esempio fatto dalla Disney qualche anno fa. Quindi in realtà è molto meno tradizionale di quello che sembra. Sì, sì, sì. Rispetto al discorso sui mezzi, sulle tecniche di animazione, a parte che in Pinocchio quando serve c'è anche del 3D, sì, nascosto, io cerco di nascondere le tecniche che utilizzo perché cerco di privilegiare lo scorrere della storia, sì, il fluire, sì, della, sì, storia, sì, non, sì, voglio, sì, che la gente si resti affascinata dagli effetti speciali, preferisco, sì, che gli effetti ci siano funzionali a quello che sto facendo. Certo, ci sono dei fuochi d'artificio molto belli a un certo punto, cose ce ne sono parecchie. Però io penso che il mezzo di comunicazione debba rimanere un mezzo, appunto, e quindi nel momento in cui io trovo una storia o lavoro su una storia che secondo me può venire meglio in 3D, con l'animazione tridimensionale, dichiarata e non nascosta, sarò sicuramente contento di provare questo nuovo mezzo. L'ho già provato, ho già avuto delle esperienze, non sono sprovveduto rispetto a questo, solamente trovo che qualche volta perda un poco il fascino della poesia, della metafora, appunto, perché ci costringe a stare coi piedi più per terra l'animazione tridimensionale, sì, sì, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista psicologico, perché tende al realismo, soprattutto in questo momento. Vediamo dei film che sembrano quasi realizzati al vero, che si cerca di imitare la vera persona, e questo appunto mi distrugge il discorso che ti facevo prima di decontestualizzazione, perché qui ricontestualizziamo subito. Sì. Senti, Enzo, allora, da oggi nelle sale Pinocchio in quante copie? Siamo a 200, 280, mi pare, l'ultimo numero delle copie. Una buona invasione. Sì, sono contentissimo, anche perché c'è una richiesta fortissima. Adesso aspettiamo il pubblico numeroso nelle sale, ora tocca al pubblico far vedere, certo, che gli piace il Pinocchio. Enzo, un abbraccio, ti ringrazio e a sentirci presto. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata. Ciao. Enzo Dalò, regista del film Pinocchio, in uscita oggi 21 febbraio. Ecco, noi Massimo Lauria, co-regista del documentario The Summit, visto che c'è l'articolo inglese davanti, in uscita oggi 21 febbraio. Intanto Massimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ti ringrazio, un saluto anche ai tuoi ascoltatori. Allora, un documentario che ricostruisce le tre giornate del G8 a Genova del 2001, e analizza anche il movimento Black Bloc e anche le diverse opinioni rispetto al fatto che sia stato le sue azioni siano state strumentalizzate dalle forze dell'ordine per attaccare altre componenti del corteo, e poi la vicenda Carlo Giuliani con un mancato processo, nonostante lo volessero sia Mario Placanica, il carabiniere che si è accusato dell'omicidio, sia la famiglia Giuliani, ma che è stato risolto con un archiviato come un caso di legittima difesa. Ecco, Massimo, ma secondo me il punto più importante del vostro lavoro è che fa un'analisi di tutto un iter che hanno seguito le forze dell'ordine a livello sovranazionale da Seattle in poi. Sì, hai messo un sacco di carne al fuoco, cerco di risponderti per ordine. Dunque, insomma, il movimento dei Black Bloc è un movimento esistente naturalmente, ma molto controverso, perché noi dall'indagine che abbiamo fatto, insomma, alla fine è risultato che quel movimento è stato abbondantemente infiltrato, non solo da parte delle forze di polizia italiane, ma anche da molti agenti di polizia straniera. C'erano 700 agenti dell'FBI a Genova in quei giorni, ma c'erano le polizie degli 8 paesi che partecipavano a quel vertice, che è un vertice mondiale naturalmente. Sì. E noi diciamo ancora un'altra cosa però, al di là delle infiltrazioni, quel movimento lì era composto anche di mercenari pagati ad hoc perché facessero quelle cose lì, e stando a quello che i testimoni, insomma, o le fonti ci hanno rivelato, quel movimento lì è stato infiltrato anche spesso da grandi multinazionali che su quel G8 contavano, perché si ratificavano delle decisioni che sarebbero poi, a nostro parere, avrebbero poi significato nei 10 anni successivi quello che poi conosciamo, insomma, il mondo così come lo vediamo. Sì. Visto che le hai citate, ecco, le fonti e i vostri interlocutori, quali sono stati? Sono stati parecchi, perché insomma si alternano nel video, sono sia rappresentanti sindacalizzati delle forze dell'ordine che soprattutto manifestanti. Sì, ci sono poliziotti, naturalmente i sindacalisti, perché gli altri possono parlare solo sotto autorizzazione, previa autorizzazione ovviamente del Ministro degli Interni, quello non è mai avvenuto, quindi insomma abbiamo potuto parlare solamente con i sindacalisti, e alcune fonti naturalmente sono rimaste coperte, e alcune ovviamente non ci sono proprio nel documentario, perché non potendole vedere in video naturalmente non sono state inserite. E diciamo che insomma le testimonianze sono state veramente molte, abbiamo intervistato un centinaio di persone, ex parlamentari, manifestanti, giornalisti, appunto forze dell'ordine, esperti anche di tattiche di guerra informali, e c'è anche un ex generale della NATO intervistato nel nostro documentario, che è quello che insomma ci racconta anche un po' di come funziona la dinamica della guerriglia urbana da parte di alcuni gruppi, in questo caso i Black Bloc. Massimo, è un lavoro che parte da lontano, nel senso, io ricordo più di un anno fa di aver visto una parzialità di questo lavoro presentato proprio alla stampa appunto più di un anno fa. Poi allora volevo chiederti come è nato e come si è sviluppato. È nato nel 2009, nel senso da una lunga inchiesta durata circa 2 anni, approdando poi alla concretezza di un documentario, insomma, visivo. E il film è stato prodotto nel 2011, poi ha avuto insomma una vita distributiva piuttosto lenta, con una primissima uscita che in realtà non ha mai avuto una distribuzione ufficiale, ma è stato poi presentato al Festival di Berlino dell'anno scorso, era in concorso nella sezione Panorama Documente e del Festival di Berlino, e da lì insomma ci è voluto ancora un anno, ma finalmente da domani, insomma, anzi da oggi Catania, Cagliari, Trento, insomma, esce nelle sale, e da domani la prima romana al nuovo Cinema Palazzo. Allora, dicevo all'inizio dell'aspetto interessante, dell'aspetto più anche centrale della manovra sovranazionale rispetto a questi incontri dei potenti della Terra. Per quanto riguarda l'Italia, c'erano state, per così dire, le prove generali con il Global Forum a Napoli nel 2001, quando i manifestanti vennero caricati e non gli fu lasciata via di fuga, e questo è stato un precedente oltre che pericoloso, appunto un precedente, fino a quel momento non si erano verificati atteggiamenti di questo tipo. E un'altra cosa interessante è quello delle squadre delle unità composte da uomini appartenenti a varie forze dell'ordine, diretti da un comando, però in modo tale che l'unità in questione non fosse affatto semplice ricostruire la catena di comando e l'identità dei singoli uomini. Sì, molte di quelle squadre furono costruite appositamente per Genova, poi sciolte subito dopo il vertice del G8. Sì. Questa cosa successe già a Napoli, come ricordavi, insomma, a marzo del 2001 Napoli fu un po' la prova generale di Genova. Penultimo, diciamo così, step italiano, perché poi ci fu Göteborg nel giugno del 2011, ma Napoli fu il penultimo step dopo Genova. A Genova ci fu la battaglia finale, quella che noi insomma chiamiamo la battaglia finale, e le dinamiche sono state identiche a quelle di Napoli, a quelle di Göteborg anche. Göteborg per poco non ci scappava al morto, insomma è stato quasi un miracolo, perché il ragazzo colpito è finito in ospedale e riuscirono a salvarlo i medici per il rotto della cuffia. Genova invece ebbe anche il morto, insomma, Carlo Giuliani. Anche lì c'è una vicenda piuttosto controversa sulla morte di Carlo Giuliani, anche perché ci sono, noi almeno nel documentario rileviamo diversi elementi che non tornano. Primo tra tutti, l'hai ricordato prima, insomma, il fatto che Placanica, nonostante sia stato prosciolto da ogni accusa e non si è manco arrivati a un dibattimento, perché non ci fu un processo per quei fatti, venne prosciolto per legittima difesa, nonostante questo ha chiesto negli anni un'apertura del processo, perché lui sostiene di non aver ucciso Giuliani, di aver sparato in aria e di non essere stato lui a colpirlo. Mm-hmm. E, insomma, questa è una cosa piuttosto stravagante, insomma, una persona che l'ha sfangata in qualche modo dovrebbe forse tirare un sospiro di sollievo e non aprire più bocca rispetto a un evento del genere, e invece insomma dice no, processatemi, perché così viene fuori la verità. E allora tutti quanti ci domandiamo quale sia realmente la verità. Allora Massimo, a livello di coordinamento internazionale, torniamo lì a quel punto, l'intenzione era quella che poi è riuscita pienamente di stroncare qualsiasi tipo di manifestazione di piazza, potendo e volendo anche con il morto, ed annientare il movimento, cosa che poi è avvenuta. Dopo il 2001, soprattutto in Italia, il movimento è stato azzerato, e tra l'altro a pagare per i fatti di Genova 2001 sono stati, saprai benissimo delle sentenze, due manifestanti, uno dei quali è un redattore di questa radio, condannati per il reato ripristinato dal codice Rocco fascista di devastazione e saccheggio a 10 anni, con pene spropositate, insomma. Sì, pene assolutamente spropositate, anche perché rispetto alle violenze che hanno subito i manifestanti, comprese le torture all'interno della caserma di Bolzaneto, ora in Italia non si processa per tortura perché non esiste nel nostro codice penale il reato di tortura, però insomma credo che le pene siano davvero molto, molto squilibrate rispetto a quanto avvenuto. Poi insomma devastazione e saccheggio, non so come dire, mi sembra veramente una cosa insomma esagerata, tenuto conto anche del fatto che insomma il movimento Black Bloc, o meglio alcuni gruppi, peraltro poche sparute persone, insomma, che distruggono vetrine, rovesciano macchine, bruciano cassanetti ed entrano dentro le banche, lasciati fare, assolutamente, insomma, senza nessun tipo di impedimento da parte delle forze dell'ordine, che nella maggior parte dei casi stavano a guardare. e finite quelle devastazioni, polizia, carabinieri, anche guardia di finanza caricavano i manifestanti, quelli che stavano manifestando in maniera molto pacifica. Ora, o sono tutti quanti impazziti, oppure evidentemente c'è stato un ordine, insomma, voluto e prestabilito. E sì, noi crediamo che ci sia stato anche che il copione in qualche modo fosse già scritto, almeno certo, dall'indagine che abbiamo fatto risulta questo. Oltretutto, insomma, nel documentario facciamo vedere un documento che sembra redatto dai servizi di sicurezza italiani, e qualcuno dice che quel documento è falso, però insomma c'è tanto di timbro del Ministero, compreso il numero di protocollo del Ministero degli Interni, e in quel documento lì, ritrovato qualche settimana prima a Roma, si racconta il G8 prima del G8, morto compreso. Sembra una macabra coincidenza. Certo. Massimo, allora, da oggi nelle sale immagino un circuito anche alternativo rispetto alle uscite solite. Per quanto riguarda Roma, il documentario sarà con doppia proiezione in una 3 giorni, da venerdì a domenica. Venerdì, cioè domani, sarete presenti anche voi, quindi sarà anche occasione di dibattito. Io ti dico un abbraccio e a risentirci magari per le prossime novità, anche per come sta andando, per quello che ha generato, per le sale che avete raggiunto e per i commenti, le valutazioni su questo lavoro. Speriamo positivo, insomma, speriamo che questo serva in qualche modo a riaprire questa pagina che è buia e anche pericolosa della nostra storia come Repubblica Italiana, insomma. Mm-hmm. Quindi speriamo che qualcuno si accorga che dietro Genova ci siano ancora delle cose non dette e delle cose ancora da scoprire, e speriamo che gli spettatori siano tanti, naturalmente. Bene. Un abbraccio anche a voi, un abbraccio a te. Ciao Massimo. Grazie, ciao. Massimo Lauria, co-regista del documentario The Summit, in uscita oggi 21 febbraio. Visionari su Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La scaletta la trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e siamo anche su Facebook con una pagina dedicata proprio alla trasmissione Visionari. Ecco noi Gianni Canova, direttore della rivista 8 e mezzo. Gianni, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, un titolo che rimanda subito a Fellini, come mai questa scelta intanto? Ma rimanda a Fellini, ma soprattutto l'abbiamo scelto perché è un numero, e 8 e mezzo è una rivista che si occupa di cinema italiano, ma non parla di film, non ci sono recensioni, non ci sono interviste, non ci sono anticipazioni, non c'è gossip. È una rivista che si occupa di numeri, di produzione, di distribuzione, di economia, di comunicazione, di tecnologia, di innovazione, in ultima istanza di politica. Mm-hmm. E allora, avendo l'ambizione di questa rivista di andare poi nel mondo, perché c'è una versione in inglese dal secondo numero, 8 e mezzo non ha bisogno di traduzioni, funziona in qualunque lingua, evoca il grande cinema italiano del passato, un film su un momento di crisi che poi però viene superato, e quindi l'insieme di questi elementi, il fatto che fosse un numero, che non avesse bisogno di traduzioni, che parlasse della grandezza del cinema italiano del passato e della possibilità di uscire da una crisi, sono gli elementi che ci hanno indotto a sceglierlo come titolo di questa nuova avventura. Gianni, a fronte della crisi della carta stampata, come nasce l'idea di una rivista? Allora, la rivista avrà e avrà sempre più col tempo anche una parte sul web sempre più importante. Sì. Io sono convinto che gran parte della crisi della carta stampata derivi da uno spropositato gonfiamento di costi che soprattutto i grandi editori hanno perseguito negli anni. Io ho fatto per anni una rivista militante che si chiamava Duellanti, che si chiama Duellanti, esiste ancora ed è diretta adesso da un giovane collaboratore che è diventato direttore, avendo appunto due redattori, e quindi nella consapevolezza che per fare un mensile non servono 20 persone, insomma, purtroppo. La carta stampata ha ancora un senso, secondo me, nella misura in cui tu offri sulla carta qualcosa che non c'è sul web, qualcosa che non è compatibile col web. Il web lavora su forme di comunicazione molto immediata, molto emotiva più che meditativa. La carta può offrire invece cose meno immediate, più mediate, più meditate, che ha bisogno di tempi di lettura più lenti, più pacati, che propongano anche il piacere della lettura e della scrittura, cosa che nel web non è indispensabile, a volte c'è ma più delle volte non c'è, e soprattutto essendo questa rivista, avendo questa rivista come missione quella di andare nel mondo, la manderemo a tutti i festival, più importanti festival di cinema internazionali, la manderemo agli istituti italiani di cultura all'estero, la manderemo a tutte le istituzioni, i musei, le gallerie, le cineteche, che hanno rapporti col cinema italiano, spesso trovarti lì una rivista, trovartela fra le mani, portartela dietro, annusare l'odore della carta e dell'inchiostro è un elemento che secondo me per qualche anno, non per sempre, per qualche anno ha ancora un suo senso. Gianni, parlavi di numeri e di produzione, di distribuzione come questioni centrali del vostro interesse. Ecco, a fronte anche degli abbattuti costi grazie al digitale della realizzazione di opere cinematografiche e poi dei tanti mezzi che soprattutto internet ha offerto a livello di distribuzione, ma anche di circuiti alternativi di sale. Ecco, che fotografia fate del cinema oggi, soprattutto in Italia? La fotografia che facciamo è che il cinema sta cambiando in maniera rapidissima, secondo me sta aumentando le proprie possibilità e arricchendo le proprie possibilità espressive e anche fruitive. L'apparato non se ne rende conto, o forse se ne rende conto ma fa finta di non accorgersene. Allora uno degli intenti, degli obiettivi che ci diamo con questa rivista è quella di, da un lato, censire, seguire il cambiamento, farlo vedere, dargli spazio, farlo censire i talenti. Ogni numero di 8,5 avrà una rubrica che si chiama, una rubrica fissa che occupa parecchie pagine del giornale, che si chiama Innovazioni, dove in ogni numero noi andiamo a trovare e a dare spazio e visibilità a quei talenti, soprattutto giovani, che ci sono nel nostro paese, di cui nessuno parla, nessun grande media si occupa, e che invece meritano attenzione, rispetto, passione, perché sono bravi, sono originali e raccolgono il meglio del talento italiano. Per fare un esempio, sul primo numero ci occupiamo della new wave dell'animazione italiana, ci sono tantissime factory fatte da giovani e spesso anche da giovanissimi, che lavorano con tutto il mondo, fanno animazione a tutti i livelli, dall'animazione digitale alla stop motion, sono apprezzati a livello internazionale e da noi non se li fila nessuno. 8,5 cerca di dare spazio. Sul secondo numero facciamo la stessa cosa con gli autori italiani di web series, sul terzo numero ci occupiamo dei fan film fatti da italiani, sul quarto numero ci occuperemo degli italiani, dei giovani, giovanissimi italiani che lavorano nell'audiovisivo nel mondo e trovano fiducia, risorse, soldi per realizzare i loro progetti nel mondo e di cui da noi nessuno parla. Nel quinto numero ci occuperemo dei nuovi giovani documentaristi italiani e così via. Di numero in numero andremo a segnalare, il nuovo, nel sesto numero di quello che accade, di quelli che lavorano su YouTube e quindi YouTube come nuova fucina in cui trovare talenti, ma talenti veri. Questo per darvi un'idea, insomma, di come è l'impostazione della rivista. Se non sbaglio siamo già al secondo numero. Volevo chiederti quante persone lavorano al progetto e poi per quanto riguarda l'edizione online, come è possibile contattarvi? Allora, al progetto lavorano a parte io che la dirigo, c'è una persona che ci lavora a tempo pieno e poi ci sono alcuni redattori di Cinecittà News che si occupano di Cinecittà News ma che si occupano anche di questa rivista e sono in due più una persona che si occupa soprattutto del web e poi collaboratori, e poi è una rivista fatta soprattutto da collaboratori. Per quanto riguarda il sito, www.8_mezzo.it, mezzo in parole e non in numero. Bene. E lì si trovano, come dire, tutta una serie di approfondimenti che non ci stanno sulla carta e che sono pensati appunto specificamente per il web. Se non sbaglio, l'uscita è mensile. L'uscita è mensile, è appena uscito il numero 2 e all'inizio di marzo uscirà il numero 3. Magari è dedicato, perché poi su ogni numero c'è anche una, ogni numero ha una copertina con un punto di domanda. Il primo numero, la domanda era: siamo un paese di analfabeti filmici? E in quarta di copertina c'è la risposta. La risposta è sempre una frase di un film. Nel numero 1 è la frase di Pasolini dalla Ricotta, che dice: l'Italia è il paese con il popolo più analfabeto e la borghesia più ignorante d'Europa. Sul numero 2 servono ancora qualcosa i festival del cinema. Sul numero 4, per esempio, la domanda è: all'ombra della crisi, ma è tutta colpa dei pirati? Punto di domanda. E si cercano di dare risposte anche quando le risposte sono fastidiose, senza guardare in faccia nessuno. Allora Gianni, spero di risentirti per i prossimi numeri. Grazie a tutti. Un abbraccio, a presto. Ciao. Gianni Canova, direttore della rivista 8 e mezzo. Proseguiamo con gli autori. Ben ritrovato Marco Catola, ci sei? Eccoci qui. Sì, ci sono, grazie. ciao a tutti. Allora, con te per parlare di Cinema Invisibile, perché abbiamo i risultati delle elezioni per del ballottaggio, certo. Per quanto riguarda i film e i documentari invisibili del 2012, cioè dello scorso anno. Dici un po', Marco, quali sono i risultati? Sì, allora, innanzitutto noi abbiamo voluto precedere gli Oscar per non influenzare le votazioni, infatti quest'anno siamo molto più in anticipo, di solito lo facciamo a marzo, invece quest'anno abbiamo finito appunto prima proprio degli Oscar, quindi non ci sono state influenze extra italiane. Comunque no, diciamo che quest'anno è stato abbastanza divertente, soprattutto perché ci sono avute delle sorprese. Innanzitutto diciamo che il miglior film invisibile del 2012 internazionale, cioè quindi non italiano, siccome c'è stato molti ex aequo e quindi alla fine erano 10 invece che 5, e il favorito era di sicuro Amour di Michael Haneke, perché appunto ha vinto praticamente ovunque, sarà candidato anche agli Oscar, quindi tutti pensavano che vincesse Amour, invece addirittura è arrivato terzo, perché al primo posto è arrivato The Winner Is C'era una volta in Anatolia, infatti felicissimo, perché proprio rispetto anche al numero di sale di Amour era molto inferiore, tipo 14 copie, mentre Amour era praticamente al limite delle 40, quindi il limite massimo era appunto 40, quindi diciamo che è stata proprio una vittoria schiacciante. La cosa strana era che invece nella preselezione Amour e Il Sospetto erano proprio molto più in alto rispetto a C'era una volta in Anatolia, mentre nell'ultima selezione, cioè la seconda votazione, ha fatto una rimonta assurda. E oltretutto Il Sospetto invece è finito proprio settimo, infatti stranissimo, guarda le votazioni, probabilmente no, ma lo sai che cosa, perché siccome i votanti non sono sempre gli stessi, cioè tra la prima e la seconda votazione probabilmente ci sono dei cambi, perché veramente Il Sospetto e Amour erano proprio al primo posto, con tipo 9 punti di distanza rispetto agli altri, allo stesso livello, sia Amour che Il Sospetto. Poi nella seconda votazione invece c'è stato questo slittamento, infatti al secondo posto poi addirittura c'è stato A Simple Life, quindi comunque film veramente invisibilissimi. Nella nostra votazione, quella che facciamo inizio anno e fine vecchio anno, eravamo 13 o 14 se non sbaglio quest'anno, due voti c'erano stati per C'era una volta in Anatolia. A questo punto dici quanti sono stati i votanti e le votanti di questa vostra gara, chiamiamola così. Allora, innanzitutto c'è da fare la distinzione tra la prima votazione e la seconda, sì. Perché per quanto riguarda il documentario e il film italiano non c'è, diciamo, ballottaggio, quindi è una votazione secca. Questa volta l'affluenza è stata maggiore nella seconda votazione rispetto alla prima, mentre di solito è il contrario, cioè la prima sono molto di più. E no, cioè, diciamo, praticamente questo, il voto riguarda soltanto gli addetti ai lavori, quindi sarebbe la stampa critica di cinema, sia cartacea che online, e però noi comunque accettiamo anche votazioni, che ne so, di associazioni cinematografiche, sì, anche di produzioni, così, che comunque sono sempre di meno. Comunque quest'anno c'è stata un'affluenza abbastanza alta, però minore rispetto all'altro anno, non so per quale motivo. Infatti quest'anno Mereghetti non ha votato, quindi, cioè, voglio dire, Ha votato da noi, però, dai. Infatti, questa cosa non è giusta. Cioè, Merighe Paolo, Merighetti, se mi senti, cioè, mi devi votare. Senti, Marco, ma per parlare proprio di numeri, in che ordine di cifre siamo? Ma guarda, saremo, cioè non tantissimi, però tipo saremo un centinaio. Un centinaio. Beh, che non sono pochi. Senti. No, non sono pochi rispetto, comunque ti ho detto, la manifestazione ad alcuni piace tanto, ad altri un po' di meno, perché ricevo comunque abbastanza critiche, infatti abbastanza anche noiose rispondere, poi io sono prolisso, quindi rispondo a tutti, però un po' sono anche fastidiosi. No, ma in realtà il solito problema, cioè che molti sono invisibili veramente, altri di meno, cioè per molti Amur non era invisibile, io purtroppo il calcolo che faccio sulla base delle 40 copie, quindi era al di sotto dei 40 copie. Insomma, allora un massimo di 40 copie per essere invisibili. Di 40 sale, poi sai la distribuzione cambia, è difficilissimo capire quando sono tutte le sale giuste, perché poi escono, per esempio Amur adesso sta avendo un'altra uscita, quindi comunque è chiaro che non è più invisibile, perché è stato candidato agli Oscar, quindi è aumentato, oppure c'era il caso di Young Adult che è uscito anche su Sky, quindi comunque avrà una maggiore visibilità, però alla fine non è entrato neanche tra i primi 10, capito che voglio dire? Sì. Infatti un'altra stranezza è che tra i primi 10 è entrato addirittura Tirannosauro, che alla fine ha avuto un'uscita, che non è uscito, cioè è stato presentato solo al Kino in maniera inedita, era stato presentato al Festa di Roma, però è entrato tra i primi 10, quindi probabilmente le persone l'avevano visto alla Festa di Roma e era piaciuto così tanto che è entrato addirittura tra i primi 10. Senti Marco, allora... Sì, poi il documentario ti dico... Ecco, ti volevo chiedere proprio, abbiamo detto del film dell'anno che era C'era una volta in Anatolia, e per quanto riguarda il documentario è un italiano se è considerato? L'italiano, allora innanzitutto c'è da dire anche quest'altra cosa, innanzitutto il documentario è la sorpresa maggiore perché ha vinto Cave of Forgotten Dreams di Werner Herzog, che però non è uscito neanche questo, quindi si tratta di un'autodistribuzione, tant'è che adesso è già in DVD, lo potete recuperare, quindi la cosa folle è che io l'avevo inserito perché era uscito, tipo era stato presentato alla Cineteca di Milano, poi forse non so, a Roma non so neanche se era stato presentato, comunque... No, a Roma non mi risulta. Quindi cioè, renditi conto, quindi hanno votato tutti questo perché era proprio piaciuto tanto, ma anche qui probabilmente è un numero di persone... perché il documentario e il film italiano diciamo che tra gli invisibili sono quelli che sono meno visti in assoluto, perché comunque sono delle categorie che proprio anche i giornalisti non seguono tantissimo, proprio perché magari non escono, non ci sono le anteprime stampa, quindi era stata proprio una lotta assurda, però veramente Cave of Forgotten Dream era al di sopra di tutti, e poi oltretutto il secondo e il terzo classificato sono stati Project Nim e Il Loro Natale, che anche questi sono pressoché inediti, hanno avuto delle autodistribuzioni, quindi assurdo, mentre Marina Abramovic e La Nave Dolce, che poi erano comunque distribuiti regolarmente e addirittura con 35 copie, Marina Abramovic di Artist is Present, quarto e quinto, quindi insomma alla fine ti giuro questo del problema della distribuzione in Italia è veramente troppo complicato da poterci capire qualcosa. E l'ultima cosa vi dico, il film italiano anche qui ha vinto l'Intervallo e noi siamo molto felici perché anche questo Cinecittà Luce, però era molto irrisoria comunque le sale. Anche per noi è stato il primo italiano. Infatti l'ho visto, me lo ricordo bene nella vostra classifica. Oltretutto la cosa appunto assurda che mi è stata anche contestata, appunto Cesare deve morire, anche quello era 38 copie, era uscito, quindi era praticamente al limite delle 40. Anche lì si pensava vincesse quello, invece poi alla fine ha vinto l'Intervallo, sì. Che praticamente aveva molte meno copie. Senti Marco, per ulteriori dettagli diamo il sito internet di Cinema Invisibile, così chi vuole sapere i risultati completi... Sì, completi, con tutte anche le altre classifiche, esatto. Diciamo, le altre postazioni, su www.cinemainvisibile.it, e poi c'è proprio Vota gli Invisibili nella sezione speciali. Marco, è sempre un piacere. Grazie a voi, sesto anno, prossimo settimo, speriamo di arrivarci. Perché non si sa mai, non si sa mai, e quindi grazie mille per la presenza. Ti saluto e saluto tutti. Un abbraccio, a presto. Ciao, ciao, Marco. Ciao. Marco Catola di Cinema Invisibile per i risultati di Vota agli Invisibili 2012. Allora è con noi Francesco Azzini dell'Associazione Culturale Hulot sulla campagna di autofinanziamento per il Cinecamper. Intanto Francesco, ben ritrovato a Onda Rossa. Ben ritrovato, sì, grazie a voi, buon ascolto ai radioascoltatori. Allora, cos'è questo Cinecamper con la K? Il Cinecamper con la K è un cinema su ruote, un vecchio Ford Transit dell'81 che era già stato inaugurato nel 2009 come un cinema vero e proprio. Ecco, come la Cortomobile, che è la nostra prima sala, ecco, anche quella più famosa, certo. È il cinema dentro l'Alfa Romeo 2000 degli anni 70, e però è una trasformazione. Il Cinecamper invece è un vero e proprio cinema, e quindi ci sono 7 comode sedute, di cui 4 ribaltine degli anni 50, siamo riusciti a strapparle all'ASNU, alla compagnia che smaltisce rifiuti a Firenze, e erano di un cinema, di un vecchio cinema fiorentino, e noi le abbiamo montate appunto sul cinecamper, e poi chiaramente c'è lo schermo, è proprio un cinema. Eh sì. Francesco, allora avete deciso di lanciare una campagna di autofinanziamento, e intanto le modalità e poi come sta andando? Allora, abbiamo lanciato questa campagna di autofinanziamento, poi ora diciamo si dice è più conosciuta come crowdfunding, no? Sì, esatto. Sul portale specializzato eppela.com, e quindi abbiamo chiesto alla rete, in questo caso quindi alla folla, di sostenere questo progetto culturale. Come? Con 100 quote di 8 euro, che è diciamo il prezzo medio di un biglietto del cinema. Sì. Odierno, no? Sì, sì. E quindi con 600 spettatori si può far ripartire questo mezzo, perché ha avuto un incidente grave e si è, il camper, appunto, mentre eravamo in missione per conto del cinema, è uscito fuori strada e si è aperto completamente, quindi c'è stata la riparazione della carrozzeria, impianto frenante, e poi lo doteremo anche di novità tecnologiche, e cioè che anche per la salvaguardia dell'ambiente, e anche abbiamo previsto la dotazione di 2 pannelli solari, quindi anche faremo delle modifiche anche in quel senso. Francesco, e come sta andando la raccolta? Allora, la campagna purtroppo sta andando male, perché purtroppo sia per i tempi che corrono, no? E quindi chiaramente ci sono, no, delle persone, gli spettatori, noi tutti insomma siamo bersagliati da richieste di ogni genere, insomma. Chiaro, qui poi si parla anche di un'iniziativa culturale, e siamo a 211 euro, ecco, e quindi mancano 14 giorni e noi ce la stiamo mettendo tutta, però chiaramente non ce la possiamo fare così come siamo fermi adesso. Io sulla scaletta, sia sul sito della radio che poi nella newsletter che invio, che sulla pagina Facebook, ho messo chiaramente il link di riferimento per chi volesse sostenere questa campagna di autofinanziamento per il Cinecamper, e a questo punto diamo come riferimento anche quello dell'associazione culturale ULO. Sì, si può andare sui siti ulot.it o cortomobile.it. E anche per esempio sulla nostra pagina Facebook Cortomobile, il cinema più piccolo del mondo, ci sono tutti i riferimenti. Io volevo dire che il Cinecamper diventerà uno strumento, sì, per riportare in pista, diciamo, la pellicola. In che senso? Nel 2014 la distribuzione ufficiale, le distribuzioni di tutto il mondo, quindi le maggiori case, elimineranno la pellicola come formato di proiezione, come strumento di proiezione nelle sale. No? Sì. Il Cinecamper sarà dotato di 2 proiettori, uno in 16 mm e uno in Super 8, quindi andremo a riscoprire anche i filmini delle famiglie in Super 8. Che bello. E in 16 mm, per esempio, le opere prime. Ci sono migliaia di opere prime dimenticate nelle cantine dei registi, diciamo, del cinema indipendente, o comunque anche del cinema normale, e che sono stati distribuiti male. Ecco, noi faremo un appello: una volta rimesso in moto, faremo un appello anche a questi detentori di pellicola per riproiettare queste opere. Bene. A questo punto, Francesco, a questo punto ti do appuntamento alla prossima novità, per cui tienici aggiornati e chiaramente ci rimetteremo in contatto e parleremo anche di questa iniziativa. Grazie, veramente grazie mille, e sì, sarà un'altra occasione per mantenere il contatto e parlare di cinema, cinema in pellicola. Cinema in pellicola. Francesco, come sempre un piacere, e a risentirci spero presto. Grazie Federico, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ciao. Francesco Azzini dell'Associazione Culturale Hulot sulla campagna di autofinanziamento per il Cinecamper. Allora, era un po' che eravamo in contatto. Giuseppe Carrieri, questa volta ce la facciamo a sentirci per quanto riguarda il tuo documentario Stelle contate sulle dita. Intanto benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie mille, grazie, benvenuti e grazie a voi. Giuseppe, Stelle contate sulle dita, cos'è? Stelle contate sulle dita è un progetto nato in maniera molto autonoma da me, che sono stato in India un periodo lungo, diciamo così, e avevo intenzione di andare in un luogo poco frequentato, e così siamo finiti dentro questa foresta nello stato di Odisha. Da lì pensavamo di trovare delle cose, ne abbiamo scoperte delle altre, e così alla fine ci siamo ritrovati in mezzo a questa meravigliosa gente che ci ha ricordato la bellezza delle stelle, quindi siamo stati molto fortunati. Quindi stiamo parlando anche di luce elettrica in qualche modo. Sicuramente. Dici in che termini? Ma noi siamo stati, appunto, abbiamo frequentato le comunità dei tribali Bonda e Dongriakond lì nella foresta di Odisha, e negli ultimi anni si sono avallati numerosi progetti per l'elettrificazione di queste zone, che erano completamente disgiunte dal resto del paese, erano remote, lo sono ancora. Ma ripeto, quello che in cui ci siamo imbattuti è non solo una chiaramente notevole forza indotta dall'arrivo dell'elettricità, ma da una nostalgia da parte soprattutto dei più anziani verso quel mondo, quel cosmo popolato da spiriti ed essenze invisibili, di cui loro ci hanno provato a dare traccia, e che pur essendo invisibili loro in qualche modo molto poeticamente, a sorpresa, ripeto poeticamente, ci hanno rivelato. E per questo il documentario racconta la nostalgia delle stelle attraverso la nostalgia del buio, se vogliamo. Oh, un po' come succede in tutti i posti nel mondo, i giovani fremono per le novità, ma anche per andare via spesso, mentre gli anziani invece si fanno custodi delle tradizioni, di una cultura popolare. Esattamente, gli anziani ci hanno aperto uno scrigno dove, invece di trovarci al di là dei ricordi e delle bellissime, come dire, avventure del passato, ci hanno rivelato esattamente questa intimità che per loro era la notte nella foresta. E quindi vedersi in queste immersi in queste popolazioni, dove la luce sicuramente viene vista come un importante passo in avanti, ma viene anche vista come un segnale di interferenza, ci ha ricordato come in fondo noi per primi dobbiamo preservare una certa poesia che noi per primi invece andiamo a dimenticare. Senti, in quest'ambito di foresta che situazione vivono? Di accerchiamento rispetto alla civiltà e ai suoi strumenti, oppure hanno ancora una certa dose di tranquillità? Ma è una bella domanda questa, e ti ringrazio, perché in effetti la tranquillità non è sinonimo di isola, cioè l'isolamento non è sinonimo di tranquillità. Mm-hmm. Loro vivono in una zona molto pericolosa dell'India, non a caso pochi mesi dopo in questa stessa zona o quasi furono rapiti due italiani, perché vi sono questi guerriglieri naxaliti che fronteggiano in maniera con degli ideali particolari, però in maniera terroristica, l'esercito indiano. Quindi loro in qualche modo vivono in questi nascondigli, un po' soggiogati, un po' rintanati, e quindi la loro lontananza non è sinonimo di beatitudine, semmai è una lontananza mitica, perché ripeto, sembrano essere ancora coinvolti e avvolti da una serie di mitologie che sono affascinanti e che per noi stranieri, outsiders, sono anche molto, come dire, ispiranti, nel senso che ti danno dei nuovi modi di affrontare il tuo mondo. Questo è quello che è importante, secondo me. Senti, che bilancio fai di questo viaggio? Cosa ti ha portato? Ma mi ha portato innanzitutto una serie di ricordi e di immagini, ma nel senso non fotografiche, cinefotografiche, immagini proprio personali molto intense. Ricordo per prima questo incontro, ma molto brevemente ci tengo a riferirlo, con una di queste donne che viveva in una piccolissima capanna nel villaggio di Bounsapoda. Questa donna aveva perso entrambi i figli per una malattia che avevano provato a curare non secondo la medicina moderna, ma secondo la medicina tradizionale. Ebbene, questa donna ci aveva raccontato come in qualche modo lei il giorno stesso aveva dovuto in qualche modo lacerarsi la pelle per esibire il proprio dolore. Di fronte a questa donna che preserva un certo tipo di religione antica, abbiamo invece incontrato una donna che era incinta e che, rifiutando queste medicine diciamo tradizionali basate su foglie e strani intrugli, aveva deciso di recarsi presso un centro medico dove si era sottoposta a un'ecografia. Ebbene, l'ecografia, per quanto possa essere per noi un esame analitico semplicissimo, invece era stata molto emozionante per lei, perché oltre ad averci visto il figlio, lei ci aveva rivisto un po' il cielo stellato, e quindi questo era stato meraviglioso, diciamo, secondo me, questo contatto tra modernità e, diciamo, poesia del cielo stellato che ritorna ovunque, era in qualche modo forse la metafora di un passaggio che però non è per forza distruzione. Ecco, proprio in riferimento invece al titolo, come ti è venuto questo titolo? E nasce, per chi vedrà il documentario, per chi l'ha visto, speriamo insomma di riuscire a diffonderlo ancora di più, nasce dalla battuta di una donna che diceva appunto che allora nel passato queste persone erano abituate chiaramente a confidarsi, a confrontarsi con le stelle, ma materialmente, non era solo una luccicanza astronomica. E nella traduzione, diciamo quasi letterale, lei provava a dirci che in realtà loro imparavano a contare servendosi delle stelle. Ora, il conteggio non è da fare secondo un'ottica nostra numerica, è più un conteggio lato, però era bella l'immagine di poter avere sulle dita, che sono un numero limitato, lo sconfinato, invece la sconfinata aritmetica del cielo stellato. Allora, io avevo conosciuto il tuo lavoro dal FIDRA, era uno dei lavori che ha partecipato al FIDRA, e volevo chiederti intanto se hai un riferimento internet e poi se c'è una sorta di calendario di proiezioni. C'è una sorta di calendario di proiezioni. Guarda, noi siamo molto felici di poter annunciare che il film, per chi lo vorrà vedere, sicuramente noi speriamo che in Italia si organizzino delle proiezioni e delle nuove manifestazioni, ma diciamo che quello che adesso è il segnale importante è che siamo stati selezionati al World Film Festival, che si terrà alla fine di marzo e che è un importante festival proprio che riguarda insomma queste tematiche etnografiche e antropologiche. Per chi vuole avere riferimenti può sicuramente visitare il nostro sito, che è www.natiadocufilm.com, oppure scrivere a me, che sono Giuseppe Carrieri @natiadocufilm.com. Diciamo che la nostra speranza è quella di non fare sì che questo lavoro possa essere visto solo in una maniera scientificamente antropologica. Non è solo un testo antropologico, vorrebbe un po' essere anche una sorta di piccola avventura senza, diciamo, eroi o supereroi, che racconta della gente normale e delle sue passioni. Giuseppe, è stato un piacere. Grazie. Spero di risentirti presto. Un abbraccio. E a presto. A presto, e grazie a voi per l'ascolto e per l'attenzione. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Allora, ci siamo con Giuseppe Carrieri, regista del documentario Stelle contate sulle dita. Chiudiamo la trasmissione settimanale di quest'oggi di Visionari. I riferimenti, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per seguirci in streaming potete consultare il sito della radio www.ondarossa.info, su Ascolta la diretta sulla home page. Per quanto riguarda Facebook c'è la pagina Visionari. Vi rimando alla settimana prossima, sempre il giovedì dalle 14 alle 15.